un lavoro, proprio facciamo un lavoro assieme, è un lavoro in cui vi ho chiesto apposta di portare da scrivere e lo faremo appena finita la nostra pratica, faremo una pratica di rilassamento e poi una bella meditazione, bella sostanziosa, perché ci serve di trovare centratura per quello che sarà poi il lavoro. In un seminario di una giornata questo lavoro si chiama deserto. Noi abbiamo un'ora e mezza, non possiamo fare un deserto. Il deserto è una forma di incontro con se stessi che ognuno di noi dovrebbe ogni tanto fare. Cioè è dedicare un paio d'ore di una giornata, un sabato o una domenica, al completo isolamento, meglio se in mezzo alla natura, su una tematica specifica. Allora, questa sera lo faremo su tematiche che riguardano l'ombra, ma vi assicuro che se volete entrare in profondità anche in lavori su voi stessi, visto che questi sono cammini di autoconoscenza, autoconsapevolezza, ogni tanto un deserto ci vorrebbe. Cioè vi prendete, andate in mezzo a un bosco da qualche parte, un paio d'ore, col blocco, con un intento preciso. Potrebbe essere anche un intento di studio, io lo faccio per studio ad esempio, oltre che per autoconoscenza, oppure di lavoro su di sé. Stasera ne avremo un'idea, questo è già strutturato questo lavoro qua, ma ognuno se lo può strutturare. Bene, allora ci stendiamo un po' in Shavasana, con un po' di rilassamento. Ma vuole dire che sono quattro gli incontri del karma? Sempre quattro. Sì, sempre. Tengo la luce. Ormai siamo molto abituati a fare questo momento di rilassamento, quindi vi lascerò abbastanza liberi dandovi poche indicazioni. È una pratica di cui ormai siete piuttosto abituati, quindi vi do solo qualche indicazione. Come sempre osservate bene il corpo. Cominciate a prendere immediatamente contatto con il corpo. Se avvertite tensioni, trovate il modo di attenuarle. Cercando di non farsi cogliere dai pensieri della giornata, cercate di creare proprio una specie di piccolo stacco della giornata e immergetevi nel corpo, osservandolo. Un'osservazione morbida. Priva di sforzo. Cercando un contatto abbastanza radicato con il proprio respiro, con il ritmo del respiro. E per qualche minuto cercate anche di rilassare, di lasciare andare. Fatelo in maniera libera, senza che io vi guidi. Prendete cura del vostro corpo e rilassate ogni parte che avvertite magari un po' tesa. Magari anche un po' dolorante. Rilassate. Lasciate andare, abbandonate. ammorbidire le parti, cercare le tensioni con grande attenzione e poi lasciare andare, abbandonare. Vi state prendendo cura del vostro corpo. Lo usiamo tutto il giorno come uno strumento. Lo affatichiamo, stressiamo, quando invece abbiamo questi momenti, questi spazi, possiamo finalmente prenderci cura del corpo. Se possiamo, cerchiamo anche di immaginarci avvolti in una luce che sorge da noi, sorge dalla sommità del capo e piano piano ci avvolge, si prende cura di noi, ci scalda. È una luce risanatrice. Se riusciamo, immaginiamo questa luce che piano piano avvolge il nostro corpo. E mentre lo avvolge, tende a risanarlo, a ripulirlo. A togliere ogni impurità. A risanare ogni dolore, ogni sofferenza, fisica, emotiva e mentale. Avvolti in questa luce ci sentiamo protetti. Risanati. Non preoccupiamoci se ogni tanto la mente vaga, se ne va. È naturale, va bene così. Con grande gentilezza la riprendiamo e come sempre la riportiamo al corpo, ascoltando il nostro corpo e questa luce che avvolgendolo lo protegge. questa luce all'altezza del cuore, aiutandoci con la respirazione. Lasciamo che questa luce si concentri pian piano al centro del petto. Si raccoglie nel cuore. Poi piano piano, lentamente, iniziamo a riprendere contatto con il nostro corpo. Facciamo piccoli movimenti delle estremità, torniamo a sentire mani e piedi, gambe e braccia. Torniamo a riabitare il corpo fino a quando sentiamo di poter riaprire gli occhi. In quel momento riprendiamo contatto con la realtà che abbiamo attorno a noi. Dopodiché, piano piano, ci rimettiamo seduti sul tappetino, ricordando di ruotare su un fianco per non danneggiare. E senza perdere compattezza, senza lasciare che la mente inizi a vagare, ci apprestiamo ad assumere la nostra posizione di meditazione, senza fretta, curando bene di sistemare il corpo, i vestiti, la postura, per vivere poi un po' di immobilità. La schiena è sufficientemente diritta, il mento lievemente abbassato. Assumiamo la nostra postura di meditazione, quella che utilizziamo sempre, e riprendiamo contatto con il nostro respiro. Lasciando che piano piano l'attenzione torni in connessione con respiro e corpo, aiutandoci con il ritmo del respiro, cerchiamo di trovare un centro, cerchiamo di trovare un posto interiore che ci permetta di essere in pace. Questa pratica sarà silenziosa. Ognuno trovi il suo centro e, se è possibile, come facciamo da un po' di tempo, ognuno di noi coltivi una frase di gratitudine per se stesso e per le persone a lui vicine, per i compagni di viaggio. Alimentiamo e nutriamo la gratitudine quando meditiamo. E rimaniamo così nella pratica silenziosa, fino a quando non vi richiamerò. siamo soliti fare senza fretta. Prendiamo contatto con il nostro corpo e quando sentiamo che è venuto il momento, riapriamo gli occhi. Vi osservavo mentre meditavate ed è cambiato molto la prima settimana che ci siamo conosciuti. È cambiato molto. Avete una postura completamente differente. Nessuno si muove più di tanto. Adesso non sono veggente, ma secondo me state praticando. E ciò mi fa piacere. Allora, questo è un lavoro che ci porterà via un tre quarti d'ora. Intanto ve lo leggo, poi prendete appunti a mano che serve. È un esercizio che potete fare in qualsiasi momento, poi domani, dopodomani, appena mi ricordo, lo passo ad Alessandro che lo metterà nel gruppo, ma intanto lo facciamo assieme. Più che un esercizio è una linea guida, quindi ognuno poi lo prenda come vuole, nel senso che lo può rielaborare a suo modo, basta che siano sufficientemente chiare le basi che abbiamo visto nei primi due incontri, che cos'è l'ombra, come si forma nel corso di una vita e soprattutto, diciamo così, soprattutto se è fondamentale il concetto della proiezione, no? Quello che abbiamo visto l'altra volta. Difatti questo esercizio l'ho un po' chiamato scopri le proiezioni, no? C'è una piccola fase introduttiva, ve la leggo. Vi ricordate tutti, no? La questione della proiezione più o meno, no? Se comunque grazie alle registrazioni potete andare a riprendere anche mi pare qualche documento l'ho passato, ma lì vi fate un'idea, poi sta a voi come ricercatori capire se è un vostro ambito di approfondimento e quindi partite per quella strada. Chiaramente questi moduli che stiamo facendo assieme sono espandibili all'infinito, pensate anche tutto questo concetto è enorme, è immenso, cioè, e riguarda ognuno di noi, tutti noi abbiamo una parte inconscia, tutti noi abbiamo, potremmo partire per l'esplorazione, no? Io con questi percorsi cerco di darvi un po' un'idea, un interesse e poi magari, ad esempio anche la questione della gentilezza amorevole, ci sarebbero testi interi da leggere, no? Per approfondirla, anche per usarla non solo nella propria vita, ma ad esempio so che allievi miei hanno cominciato ad insegnarla in famiglia, magari, no? A coltivare pensieri di gentilezza amorevole da parte, non so, del coniuge, dei figli, perché? Perché purtroppo la società in cui viviamo spesso ci fa coltivare pensieri di altri, no? Separativi, insomma, lo vediamo, basta aprire un giornale, un telegiornale, insomma. E quindi questo cambio, cioè dedicare un po' di tempo alla giornata a coltivare la giornata, però sono ambiti di lavoro molto grandi. Allora, scopri le proiezioni. La prima operazione da fare per riappropriarci della nostra ombra è quella di riconoscerla, e questo l'abbiamo detto. Di vedere come e dove l'abbiamo esiliata. La psicologia descrive un processo che appartiene a tutti ed è sottostante ad ogni forma di relazione, chiamato la proiezione. La proiezione più usuale e facile è proprio quella dell'ombra. Infatti si proietta un'ombra, si dice, no? Mediante questo meccanismo siamo propensi a trasferire all'esterno tutti i contenuti inconsci che possono disturbarci, per cui gli altri hanno sbagliato, oppure la colpa è sempre degli altri. il riconoscere che i difetti del mondo sono anche i nostri stessi difetti, ecco, ho premuto un po' su anche, perché questo giochino potrebbe rivolgersi contro di noi, è solo colpa mia, è tutta colpa mia, ok? Ecco, è il gioco contrario, dal è tutta colpa degli altri al è tutta colpa mia, è la stessa cosa. Quindi è, qui è un anche, è molto importante quell'anche. Richiede un altissimo grado di autoconoscenza e consapevolezza, altissimo grado. Questo significa porsi di fronte alla propria personalità con atteggiamento obiettivo. Obiettivi. Qua gli esercizi sono tantissimi, adesso non vediamo questo, ma questo l'auto-osservarsi in maniera obiettiva, anche abbastanza distaccata, ci fa vedere noi come se fossimo esterni a noi. E quindi il giudizio che sorge non è più un giudizio viziato da mille situazioni interiori, ma è un'osservazione obiettiva. E ritirare le nostre proiezioni dall'esterno. Il modo operativo migliore per notare le proprie proiezioni è quello di divenire consapevoli delle antipatie più profonde e spesso ingiustificate, magari a pelle. Alcuni individui presentano delle caratteristiche psicologiche che si esprimono poi nel linguaggio non verbale, tali da renderli catalizzatori delle nostre proiezioni di qualità inferiore e pulsioni inaccettabili. Chiaro? Questo branetto è molto chiaro. Mi è venuto in mente proprio l'altro giorno una mia allieva mi ha fatto notare che lei non so, c'è un personaggio della TV che non sa neanche chi è, ma quando appare non occorre neanche che parli, non mi ricordo chi sia, e lei a pelle sente che proprio deve quasi andare via, allontanarsi o cambiare immediatamente. E io ho detto, beh, sai che dovresti stare lì, magari mutala anche, ma guarda cosa di quell'espressione, di quel modo di muoversi ti produce questo fastidio, perché potrebbe essere interessante proprio per questa roba. Allora, l'esercizio si svolge in quattro fasi. Chiaramente stasera faremo solo una simulazione, poi questa simulazione potrete ripeterla quante volte vorrete. E un giorno, quando voi vorrete, fra 1, 2, 3, 5 anni, non importa, vi troverete nella vita a fare questo lavoro che diventa molto interessante. Primo si chiama vedere la proiezione. In una fase sperimentale cosa si fa? Evocare per sommi capi, qua segnatevi almeno qualcosa perché sarà il lavoro che faremo, che farete da soli nella prossima mezz'ora. Evocare per sommi capi alcuni episodi del recente passato in cui avete avvertito con precisione le caratteristiche della proiezione dell'ombra. Descrivere l'evento, i protagonisti, lo stato d'animo, se si ricorda, il proprio stato d'animo, nel tentativo di riviverlo emotivamente. È necessario che l'evento sia vissuto però in terza persona, come se si stesse assistendo da fuori alla situazione. Sarebbe auspicabile che gli eventi fossero in situazioni e ambienti e con persone diverse, cioè non prendete di punta sempre la stessa persona o sempre la stessa situazione. Se riuscite, prendete 2 o 3 momenti del vostro recente passato diversi tra loro. Se non vengono diversi, utilizzate sempre gli stessi o con le stesse persone. Sarebbe auspicabile avere momenti diversi. Perché? Perché magari sorge sempre nella stessa parte, la stessa, diciamo così, parte inconscia, la stessa subpersonalità, e quindi sorgendo in momenti diversi cominciamo già a vedere che siamo noi che la mettiamo in campo, non colpa di. Chiaro per tutti? È un lavoro quasi scientifico sperimentale questo. La seconda fase, la pratica dell'auto-osservazione. In questo momento si fa questa cosa qua, individuare le emozioni negativo-distruttive che sono emerse in questi eventi e dare loro un nome. Ecco perché stasera ho chiesto ad Alessandro di ripostare quella cosa sulle emozioni, perché quella vi aiuterà quando lo farete a casa. Quindi un nome vuol dire rabbia, paura, angoscia, gelosia, fastidio, repulsione, ok? Una di queste, dare un nome. Questo ci permetterà di delineare le nostre reattività ad una specifica situazione e trovare nel tempo e comparando similitudini e ripetizioni. A noi interessa capire quando reagiamo in un certo modo a certe situazioni nello stesso modo, perché se lo facciamo in terza persona e riusciamo ad individuare questi momenti in cui quella parte della personalità viene scatenata dal fuori, ci accorgiamo che questa parte reagisce in un momento preciso. Allora, molto specifico, molto specifico, ma molto interessante, perché se riusciamo a farlo in questi termini, individuiamo senz'altro quelle parti di noi che vengono stimolate dall'esterno. Terza fase, individuare quindi le reattività. Quindi individuare, se possibile, quali sono le caratteristiche del nostro carattere. Questo è un lavoro molto difficile, delicato, ma non c'è nessuna fretta, che reagiscono a quelle situazioni tipo e descriverle. La domanda che dovremmo porci è: quale parte di me reagisce a questa situazione? Riesco ad ascoltarla, a darle spazio, a sentirla? Rispetto alle prime due parti, che saranno le parti però che affronteremo stasera, questa terza parte è una parte molto delicata. Perché? Perché non siamo abituati a vederci come parti di noi che reagiscono. Noi abbiamo un'idea abbastanza individuale di noi, no? Si parla di personalità. La personalità ha mille sfumature. In un certo stato noi ci sentiamo in pace, tranquilli, e quando pensiamo a noi, pensiamo a noi come delle persone pacifiche, serene, senza nessun problema. Poi arriva il momento in cui... Com'è? Io no. Pensiamo a volte, se no siamo persone travagliate, ma sono modelli mentali. A volte però capita che troviamo chi riesce a far cambiare questa normalità, chiamiamola così, e tirare fuori una parte di noi. In quel momento là incarniamo quella parte. Se abbiamo un'attenzione abbastanza attiva, riusciamo a vedere quale parte del nostro carattere, quale parte della nostra personalità reagisce. Ok? Quindi, quale parte di me reagisce a questa situazione? Riesco ad ascoltarla, a darle spazio, a sentirla? Inizialmente, questo non viene scritto qui, ma ve lo dico io, inizialmente sarà un ascolto fisico, perché quella parte non è mai stata ascoltata prima, non è in grado di comunicare con noi, perché noi non abbiamo alcuno strumento per ascoltarla. Quindi lei come si esprime? Si esprime fisicamente. Quindi vedete, molte volte, ad esempio, l'angoscia potrebbe chiuderci la gola, la gelosia potrebbe irrigidirci, che ne so, chiudere lo stomaco, la rabbia potrebbe arrossarci il viso, oppure farci venire, alzare la voce, no? Questo è perché non abbiamo un altro modo per ascoltare questa parte, quindi inizialmente ascolteremo fisicamente. Quarto e ultimo stadio di questo percorso è la fase di accettazione delle parti in ombra. È il lavoro più complesso e lungo del processo e può richiedere molto, molto tempo. È necessario perciò in questa fase coltivare pazienza e compassione come qualità essenziali verso se stessi. Infatti pazienza e compassione, non a caso, sono il tema dei primi 2 mesi di lavoro sulla pratica di base e tema del secondo modulo sulla gentilezza amorevole, compassione. Cioè, pazienza e compassione. Quel coltivare pazienza e compassione verso noi stessi allora porterà dei risultati, potrebbe portare dei risultati. Siamo in grado di metterci in ascolto di queste parti, riusciamo a sentirle, dare loro spazio, avvertire che sono parti di noi in conflitto con l'io consapevole ed infine accettarle? Questa è una domanda che dovremmo porci. Ecco, il lavoro che vi chiedo di fare questa sera per una mezz'oretta fino alle 9:30 è un lavoro assolutamente solitario. Dopo alle 9:30 vi richiamerò e faremo un po' di feedback e un po' di pratica. E è quello di arrivare almeno alle prime 2. Quindi è un deserto, prendetevi questa mezz'oretta di tempo in cui evocate per sommi capi episodi del recente passato, come abbiamo descritto. È chiaro per tutti? La prima fase? Sì. E poi cominciamo a praticare l'autosservazione cercando di delineare quali sono le emozioni che sorgono, dandole un nome. Questo è già tutto il lavoro che vi chiedo. Se poi riusciamo anche a toccare o a assaporare vagamente la terza fase, cioè individuare le reattività, magari anche vagamente, quindi non so, incontro tizio al lavoro e immediatamente in me scatta una reattività. Come la potrei chiamare questa emozione? È un grumo di emozioni. Mi prendo del tempo. Tra l'una e l'altra fase posso anche fare delle piccole meditazioni, avete mezz'ora, qualche minuto di respiro, proprio per focalizzare bene, non abbiate fretta. È un lavoro delicato in cui stiamo entrando in contatto con parti di noi inesplorate. Il viaggio dell'inconscio è un viaggio di parti inesplorate. Perché? Abbiamo detto che la proiezione è molto più semplice proiettare fuori che indagare dentro, molto più semplice. Allora, quello che vi chiedo invece di indagare dentro, quindi perdiamoci tutto il tempo possibile. Come lo potremmo chiamare? Potremmo chiamarlo fastidio, va bene. O potremmo chiamarlo ansia, perché magari è un mio superiore in una gerarchia aziendale, sto inventando, e quel superiore è uno che pretende tantissimo, io sono magari in una situazione anche ballerina, per cui ogni volta che lo vedo, anche se non mi parla, sento in me uno stato d'ansia. Che cosa mi procura l'ansia? Mi procura una certa pesantezza qua. Allora, Demetrio ha detto che non è colpa sua, perché lui è così. O se non altro non è completamente, ma è una parte di questa esperienza che sto vivendo. Cosa sento? La posso chiamare ansia. Bene, chiamo. Che cosa mi provoca? Me lo scrivo proprio, scrivo, sento un peso a livello del torace che mi accorcia il respiro, prendo contatto con questa sensazione. Una volta fatto questo, posso anche cominciare a dire, beh, ma questa parte di me si rivela in altri casi, magari mi sono segnato altri casi, che sono completamente diversi, ma che avverto nella stessa maniera o molto simile. E allora è presente in me questa parte. Posso stare accanto a questa parte, posso convivere con questa parte. Questo chiaramente è un lavoro che verrà. Però posso intanto riconoscerla e dire quale parte di me reagisce a questa situazione. Riesco ad ascoltarla dallo spazio, che è la terza fase? Sì, ci provo. No, non ce la faccio assolutamente. Perché? Perché sto là un po' e vado ancora più in ansia. Mi si collegano altri esempi, altri momenti della vita e comincio la tachicardia. Ho visto persone veramente in grave difficoltà. Ma in grave difficoltà, qualche un annetto fa ho dovuto accudire una ragazza che attraverso questo esercizio, non spaventatevi, ma ha contattato un trauma forte ed è stata veramente dura. perché questo trauma forte l'ha fatta crollare, no? Fisicamente e emotivamente. Allora, noi esploriamo con grande cautela, abbiamo cosa? Abbiamo elaborato questo, questa parte della pratica che è il gesto, la parola, la piccola frase che ci fa da salvagente, ok? Ecco a cosa serve. Nel momento in cui comincio ad esplorare la terza parte, che è come sto vicino a questa cosa, eccetera, come la sento, potrei mollo tutto e sto con questa piccola frase, con questo gesto, che era per tutti. Bene. Domande, perplessità? Immagino tante, però non so se avete mai fatto un lavoro di questo tipo. Ho un po' di difficoltà qua, perché da partire dalla partenza, la prima evocare per sommi capi, sì. L'inizio allora. Per sommi capi vuol dire che individuo un momento della giornata, di quello che è stato il mio. Negativo, no? Ma più che negativo, in cui io non lo definirei negativo, no. In cui sono sorte delle emozioni. Un fastidio. Svalutanti, sì. Vabbè. Sempre sì, più di fastidio che di. Sì. Che, sì. Ecco. No, come mettere in fila, allora, primo passo è quello lì, evocare nella giornata quello che si è vissuto. Più che nella giornata, direi che in un recente passato, l'ultimo anno, non andiamo tanto indietro, perché sennò perde la connotazione il ricordo. Individuo un momento in cui è sorta questa cosa. E poi? Poi da lì cerco di riviverla. Posso anche chiudere gli occhi, stare lì, me ne sono segnata, non so, il mese scorso ho incontrato un mio vecchio amico e ho scoperto che è completamente cambiato e ho vissuto questa cosa abbastanza male. Basta, metto giù la penna e cerco di ascoltare, rivivendo quel momento, quali sono le emozioni che sono sorte. Nel momento in cui queste emozioni le vedo, perché le vivo in terza persona, le vedo, allora in quel momento le segno, proprio le scrivo. E diciamo, qui un accadimento nell'anno, sì? mi fermo lì e guardo le sfumature, no? Guardo, non andando in un'altra... No, osservo solo quello. E posso anche all'inizio segnarmene due o tre. Perché comincio ad andare indietro e me ne segno due o tre e poi li rivivo tutti, cerco di riviverli uno alla volta e a mano che li rivivo ascolto le emozioni che sorgono e me ne segno, proprio le chiamo, gli do un nome, ok? Già queste due fasi sono molto importanti. Poi la terza fase è cosa hanno provocato in me, cosa sento in me, quindi anche lì mi metto un attimo tranquillo e ascolto cosa provocano dentro di me. E posso anche prendermi nota, dico, ma mi si chiude lo stomaco. Quando vedo quella persona, ma faccio anche quella cosa, o non so, incontro, vado in quel luogo, ma potrebbe essere anche un luogo, mi si chiude lo stomaco. E cerco di trovare delle regolarità in questo sorgere di questa parte di me. Perché questa parte di me inconscia, che è quella che abbiamo detto, legata, eccetera, eccetera, sorge in determinate situazioni. Non cerchiamo 25, 22, 3, tanto per cominciare, anche uno. Intanto prendiamo contatto con la normalità, col percorso che dovremmo fare, ok? Chi ha detto tutti i giorni? Io. Porta pazienza stasera. In questi termini? Ma io ho una... Allora, io sto bene adesso, però non ho avuto una vita semplice, nel senso che io non sono mai stata bene. E ci sono dei motivi, mia madre era una persona che non stava bene, per cui io ho attuato tutta una serie di comportamenti e sono diventata la madre di mia madre. Ma anche di mio padre. Certo. Io ho visto che non erano all'altezza della situazione, eppure loro erano persone che lavoravano, non erano persone alcolizzate o cose certo, del certo. genere. Però io vedevo la paura di mio padre, l'ansia di mio padre quando lavorava rispetto, avevamo tanti clienti, avevamo un ristorante, per cui io vedevo queste cose e mi sono, non lo so, con mia madre automassacrata, ecco, che era altalenante mia madre, era inglobante, buonissima quando stava bene probabilmente o quando si sentiva in colpa, ed era altrettanto, non dico sadica, ma non si rendeva conto naturalmente lei, perché a sua volta aveva avuto una famiglia. Difatti ho fatto pace con queste cose, perché ho capito che aveva avuto una famiglia altrettanto disfunzionale. Certo. Anche se vivevano, guadagnavano, non mi è mai mancato il cibo, ma a livello di relazione io non sono mai riuscita ad entrare in contatto con mia madre. Ho vissuto una realtà alternativa. Certo. Praticamente questo mi ha causato depressioni. Sì. Mi ha causato, io ho preso anche farmaci. Certo. E quindi questo ha avuto una serie di conseguenze nel fuori. Certo. Per cui la mia vita è stata molto difficile, ho dovuto interrogarmi sempre per stare in piedi. Pensi di aver terminato il lavoro di integrazione dell'ombra, quindi? Ma io penso di avere ancora tante cose, però se non avessi fatto il lavoro che ho fatto, certo. Ma non quello analitico, perché quello analitico si è avuto, ma anche quello analitico dell'analisi, io non sarei qui. Certo, questo è un misto tra l'analitico e, diciamo così, l'intuitivo, chiamiamolo così. È un misto perché prevede che ci sia la base, una pratica di contatto con se stessi. L'analitico è molto diverso per certi punti di vista. Qui c'è una base analitica sicuramente, perché questa è analisi, ma c'è una parte di integrazione che non ha a che fare con l'analisi. È come se noi provassimo ad accogliere queste parti di noi in maniera naturale. Non vi è un modo, non c'è una tecnica. La parte analitica è quella iniziale sicuramente. Quindi tu, insomma, puoi lavorare con i tuoi strumenti questa sera, insomma. Vedi come scrivere questa diciamo parte. Però ecco, anche per aiutare, non è una presunzione la mia, è assolutamente, sono arrivata al punto di essere contenta se sto bene con gli altri e questo coinvolge anche l'altro. Certo. Allora io rispetto a queste cose le ho sempre guardate molto in faccia. Allora prima mi causavano crisi di panico. Certo. Perché non le capivo, però non ho mai fatto finta di niente, sì, le ho sempre guardate in faccia, e quello che mi ha portato finora a lavorare su di me, perché io continuo a fare corsi di crescita di vari livelli, certo, che mi hanno aiutato tanto, ma sono io responsabile della faccenda, non mi... l'altro, quello che guida, mi guida sì, però ho la presunzione di sapere talmente tanto di me e tante cose che riesco a trarre il beneficio. Certo. E però ecco, quello che volevo dirvi senza chiacchierare tanto è che queste cose mi hanno dato l'opportunità di andare avanti, cioè di fare un percorso, ed è certo. Quello che mi tiene in vita. Certo, certo. Cioè io sono motivata solo se trovo gente oppure situazioni di questo genere, sì. Altrimenti per me chiaramente mi piace anche fare altro, no, però mi sento bene in quelle situazioni. Sono vitali, diciamo. Sono vitali. Sì, certo, è vero, è vero. E in ogni caso, quello che hai detto è più che, a mio modo di vedere, più che corretto, nel senso che nessuno può sapere meglio di noi chi siamo, poco o tanto che sia. Quindi queste sono, come ho detto prima, linee guide orientative. Io auspico che una volta che voi avete cominciato questo lavoro, se lo comincerete mai, se questa sera facciamo un po' di prove, poi lo rielaboriate a seconda di come siete voi, magari aprendo qualche libro, studiando qualche altra tecnica, qualche altro metodo, ma che poi lo facciate vostro e che troviate la modalità migliore per entrare in contatto con queste parti, che poi esulare completamente da questa cosa, ma questa è, come dicevo, una linea guida orientativa. Bene, iniziamo a lavorare che sono le 9:10. Allora, 25 minuti fino ai 35, questi passaggi qua. Se qualcuno di voi ha dei dubbi, alza la mano, io vengo, oppure viene qua e mi chiede. Va bene? Buon lavoro. Thank you. fermarci qui per ora. Come spero avete intuito, è un lavoro lungo, complesso. Ci sono dei dubbi, delle perplessità? C'è panico con la vocale. Però questo spero non vi spaventi. Ma quando vedo e accetto questa cosa, cioè non dovrebbe più darmi fastidio? L'accettazione però non è una questione mentale, ecco perché lì smette la fase analitica. L'accettazione è come se mi prendessi cura di una parte di me indifesa, arrabbiata, abbandonata, e che quel prendermi cura, cioè stare in ascolto, provocherà nel tempo l'integrazione. Ma non è una cosa di come da adesso ho fatto pace con questa cosa. Come dici, però poi se succede di nuovo questo... Basta, non c'è più alcun tipo di reazione emotiva, negativa se non altro, ma c'è completa accettazione. E com'è che mi prendo cura di questa cosa? Rimani ad ascoltarla, stai in contatto con questa parte di te, l'ascolti smettendo di guardare fuori, cioè rimaniamo con questa parte come se fosse una parte di noi proprio ferita. Non è che somatizzo tenendo dentro? No, non è che somatizzi, no. Non è che tieni dentro, somatizzi se tieni dentro. Senza vederla questa cosa, allora viene somatizzata, diciamo, prima di tutto viene relegata nell'inconscio, poi si manifesta a livello fisico e si manifesta con un'emozione negativa, ma piano piano si può manifestare anche con una problematica proprio di tipo fisico. Infatti la mia paura inizialmente di questa cosa era perché la tenevo... Cioè... No, noi le teniamo dentro e quindi come tali le somatizziamo prima o poi. Mentre così le vediamo, gli diamo spazio, lasciamo che parlino, che ci siano. Diventano parte di noi, l'integrarle è questo. Altri dubbi, perplessità? Avete un po' cominciato a orientarvi, è un lavoro completamente nuovo per molti di voi, immagino, no? Sì. Quindi insomma ci sarà anche tanta confusione, ci sarà difficoltà, insomma, però non è che... si diventa laureati al giorno d'oggi, oggi e domani. Questa è una linea, diciamo così, orientativa. Vi leggo un paio di cose prima di fare, se ce la facciamo, l'ultima pratica. Se ci sono dubbi comunque, sono qua. Sì, solo una cosa. Sì? Nella prima parte, quando si diceva di vedere in terza persona. Sì. Cioè ci dovremmo vedere noi. Sì, una specie di film. Una specie di film, in modo che ci mettiamo in una posizione, è come la ricapitolazione, ci mettiamo in una posizione di osservazione obiettiva. Perché ci serve questo? Perché se siamo immersi in questa emozione e questa emozione ci prende, è facile che ci diamo puro torto o pura ragione. E cadiamo in un autogiudizio, buono o cattivo che sia. Nel caso contrario, in questo caso invece guardando da fuori, osserviamo la scena e vediamo cosa provoca nel Demetrio che sto guardando questa scena. Forse questa lettura chiarirà ancora meglio. Non è sempre possibile comprendere la polarizzazione in modo lineare. Cioè non c'è una linearità, non ve l'ho letta prima perché vi complicavo ancora di più la vita. Non c'è una linearità, c'è una abitudine ad osservarsi e a comprendere quando emergono queste parti. A volte i comportamenti che non approviamo negli altri non sono relazionati con la nostra ombra, a volte. Capite perché non vi complicavo la vita prima? Potrebbe esserci un caso in cui abbiamo una buona ragione per non approvare i comportamenti degli altri. Non è che sempre sorge qualcosa, ecco, andiamo dall'altra parte, come ho detto prima, è sempre colpa mia, perché sono fatto male io. Comportamenti che oggettivamente sono comportamenti che non sono accettabili. E in questo caso tale azione non ha nulla a che vedere con il nostro modo di agire o con la nostra anima. Se assieme alla disapprovazione per questo comportamento noi provassimo anche un'avversione viscerale per quella persona, vorrebbe dire che l'ombra è stata attivata. È chiara questa distinzione? Si è attivata in quel momento. In questo caso potremmo chiederci se avremmo provato la stessa irritazione se quell'azione fosse stata compiuta da un'altra persona. Vi capita mai di accettare delle cose da una persona a cui volete un gran bene, ma lo stesso atteggiamento è irritabile in una persona con cui non avete... Sì o no? Quello è un chiarissimo esempio di attivazione dell'ombra, chiarissimo, nell'uno e nell'altro caso. Ma solo che quel caso in cui la persona ha il problema affetto, eccetera, eccetera, lì va bene, non occupiamoci di questo però. Ma nel momento in cui la stessa identico comportamento viene fatto da una persona che già un po' ci sta sulle scatole, lì si attiva l'ombra, ok? In questo caso, con questo esempio, conoscere la nostra ombra può aiutarci ad agire per qualunque cosa abbia fatto la persona senza colorare l'interazione con le nostre produzioni emozionali. Jung diceva: conoscere la propria oscurità è il metodo migliore per affrontare le tenebre degli altri. Questa è una frase topica, secondo me, molto molto importante. Perché? Per tanti motivi, guardate, sono motivi anche storici, oserei dire. Il guaritore di per sé, senza andare troppo a scandagliare, ma il guaritore di per sé, soprattutto il guaritore dell'anima, deve essere uno che ha affrontato i suoi demoni, capite? Se non li ha affrontati, non può guarirti. Ti può dare una via, un metodo, come sto facendo io ho ancora molti demoni con i quali ogni giorno combatto, ma ti può dare un metodo, una via, però il guaritore, lo sciamano del nord Europa, il curandero del sud America, non so, il druido del centro Europa, quelle figure sono figure che possono guarire, non guariscono mai il problema fisico, guariscono sempre la sofferenza dell'anima, fanno perché hanno affrontato e sciolto i loro demoni, capite? Da questo punto di vista questa frase è molto importante, perché significa che il lavoro che facciamo su di noi ci porta ad un livello interiore tale per cui poi possiamo essere d'aiuto agli altri. Ecco perché è interessante, non tanto per guarirci, sì, chiaro, ma per guarire ad un certo punto. Io questo vedo veramente una cosa interessante, perché possiamo donare la luce. Perché vedete, questo è proprio a livello esoterico, potremmo parlare di un espandere la propria luce interiore. E questo lavoro qua ce la fa espandere, ma ce la fa espandere ad un livello tale per cui poi possiamo prenderci cura realmente degli altri. Capite? A me ha sempre affascinato tanto questo lavoro. Ultima lettura, piccola. In conclusione, il nostro sé, la nostra ombra, dovrebbe spaventarci? No. Anche se in un certo senso sì. Perché alcune di queste energie represse sono diventate distorte e quando hanno la possibilità di esprimersi, se lo fanno inconsciamente, attenzione, se lo fanno inconsciamente, si manifestano in modo negativo. La buona notizia è che possiamo integrarle e trasformarle. Se siamo pronti a farlo, il primo passo sarà conoscere la nostra storia personale. Ecco, questo è un lavoro che io non vi propongo, non posso proporvi, ma sarebbe un gran lavoro quello di fare, di scrivere la propria storia personale, riscrivere e identificare i punti traumatici più grossi, quelli medi e quelli un po' più piccoli. Perché lì si sono formate le grandi aree della nostra parte inconscia, scusate. Sì. Che lo sguardo materno ti dice molto anche se non parla. Certo, lo certo. Sguardo materno trasmette le insicurezze che una madre ha, ad esempio, ti guarda in un certo modo. È già lì che si stende. Secondo me già quando sei in pancia. Sì, adesso non sto a guardare. Sicuramente quello che ti sto dicendo è proprio perché ho preso quando nasci, ma c'è dell'altro, certo, certo, la madre c'è. Però, e io su questo ci credo tantissimo, e però mi è difficile analizzare quella parte, perché io sono un po' arrivata lì ad analizzare. Ma io più che altro, più che analizzare, proprio, chiaramente, analizzare è forse una parola, sì, un po' analitica. Nel senso che probabilmente io faccio, mi sono fatto questa domanda, io mi sono formato fra l'altro su testi di psicologia esoterica che non hanno niente a che fare con testi di questo tipo, di psicologia, quella nostra che conosciamo, insomma. La psicologia esoterica guarda ad un percorso di vita, quindi guarda ad un percorso intero della vita, cioè da incarnazione ad incarnazione. Quindi è un percorso molto più ampio da analizzare dal punto di vista della psicologia, quindi fa una psicologia dell'animo, non della personalità. Da questo punto di vista, ad esempio, il corredo genetico e psichico, chiamiamolo così, ci viene dato perché c'è un progetto, adesso non voglio sbarrellare troppo, il progetto è il progetto dell'anima. E quindi quel codice genetico che è dato dai genitori, no? Quel corredo genetico, e quel corredo psichico che è l'indole con cui nasci, sono l'unione del materiale, perdonate il termine, che formerà quel tipo di personalità che sarà utile all'anima per andare avanti nel percorso evolutivo. Lo vedremo meglio con alcuni spunti di riflessione la prossima volta, con l'ultimo tema teorico, che è quello dell'inconscio collettivo, che non andrebbe neanche sfiorato qui in questo percorso, ma do sempre qualche spunto per riflettere, perché è poi quello che ci introduce al karma. Allora, in questo senso, sì, perché se siamo pronti a farlo, il primo passo sarà conoscere la nostra storia personale e come ci ha influenzato. Durante questo viaggio potremo scoprire parti di noi che non ci piacciono. Quindi diventerà importante sviluppare compassione e comprensione verso se stessi, pazienza e compassione. E a questo punto potrebbe esserci un ostacolo che ci impedisce di integrare la nostra ombra. Questo è molto importante. È la sindrome del già lo so. Questo è fondamentale soprattutto per chi è da un po' che è in cammino. Questa sindrome colpisce tutti coloro che sono da un po' nel percorso. Già lo so, oppure dica, ah, ma sono fatto così, sarebbe questa un po'. Se ci sono dei traumi irrisolti nel nostro passato, nella nostra ombra, potremo trovare il dolore, la sofferenza o le paure che non abbiamo ancora superato. La sola conoscenza intellettuale può impedirci di entrare in quel dolore, la sola conoscenza intellettuale, anziché permetterci di fare un'esperienza e integrarlo. È un viaggio che vale la pena di essere intrapreso, secondo me. All'inizio potremmo avere paura di intraprendere questo viaggio, ma nel conoscersi intimamente si acquista un certo sollievo e una libertà interiore. Io direi una grande libertà interiore. L'ombra si manifesta ogni giorno attraverso le nostre paure, i nostri desideri e nell'interazione con il prossimo. Quindi questa è un po' un'esortazione, no? Di fare passetti brevi, piccoli, perché l'inconscio ci presenta anche delle trappole non da poco, perché sono grappoli che potrebbero portarci a momenti di disagio forte, momenti, se qualcuno di noi li ha vissuti, di potente dolore. E allora si procede sempre con grande cautela. E però quasi sempre questi grandi traumi o questi traumi nascondono dei tesori, così è scritto anche nelle fiamme, no? Nei miti. Non esiste mai un tesoro che non sia custodito da un drago, giusto? Drago. E il drago è proprio l'emblema. L'emblema è il drago, no? Sapete che è una passione per i miti e per le fiabe. Sapete che il drago è l'emblema di questa parte traumatica, che però conserva in sé la perla. Che cos'è? Questa enorme energia che è dentro di noi, questa grande luce, che però è presidiata da questo drago. E come dice Remir Zolla, bisogna avere grande rispetto per i draghi che custodiscono i tesori. Grande rispetto. È vero, di avere grande rispetto, perché fanno il loro lavoro. Sta a noi ammansirli o scioglierli o incontrarli, insomma, ok? Quindi questo è un po' il lavoro. Io ho avuto niente, spero di avervi dato qualche spunto di riflessione. Non abbiamo tempo per la pratica, vi mando sempre via tardi stasera, non erano giusti. E se avete domande, cose del genere, scrivetele che la prossima volta ne parliamo. Okay? Questa settimana la pratica è sempre quella. Se riuscite a lavorare su queste cose, tanto di guadagnato per voi. Ricordatevi che tutto si basa sempre sulla forme, diciamo così, virtuose di abitudine. Prima o poi arriverà che praticando queste cose, durante una situazione di quelle che adesso state vivendo a livello sperimentale, vi autoosserverete invece di osservare. Già sta accadendo, immagino, che la meditazione porta a questo. Ma capiterà in maniera molto interessante. Comincerete ad ascoltare le vostre parti che affiorano in un momento di disagio. Ok? Buon fine settimana. Grazie. E naturalmente meditate come non ci fosse un domani.